Allora, buonasera a tutti. Io non parlerò molto poco e poi comincerò a fare domande perché l'ospite d'onore è Joe. Inutile dire quanto sia un piacere anche per me essere qui. Con Joe ci conosciamo da 13 anni, credo, 13 o 14 anni. L'ho seguito in una buona parte della sua fantastica storia italiana. Perché ho lavoro adesso per Einaudi, che è il suo editore oggi, ho lavorato per Fanucci, che è stato il suo editore in passato, e da qualche tempo a questa parte ho anche l'enorme piacere di tradurlo. Ho tradotto i suoi ultimi tre libri, ecco, l'ultimo dei quali è uscito, esce proprio ora, ed è questa antologia costruita appositamente per i suoi lettori italiani, che quindi non ha un equivalente americano, e che è un'antologia che si intitola Notizie dalle tenebre e che in realtà Joe e io abbiamo costruito insieme, nel senso che era una sua scelta. In più lui mi ha dato il modo di leggere qualcosa come 130-140 racconti dei tantissimi che lui ha scritto, da cui abbiamo tirato fuori, diciamo, insieme questi 16 che sono dentro questa antologia. Joe ha scritto 30 e più romanzi, ha scritto centinaia di racconti, ha avuto in Italia un successo straordinario, sempre. Io credo che lui sia uno degli scrittori americani degli ultimi 20 anni, diciamo, che ha avuto un ruolo, un influsso e un'importanza proprio anche per gli scrittori italiani, molti dei quali si sono avvicinati in qualche modo alla letteratura e hanno cominciato a scrivere partendo, rimanendo fulminati dalla lettura dei romanzi di Joe. Vi faccio un nome su tutti, che è quello di Niccolò Ammanniti, che penso, insomma, più o meno voi tutti conoscerete, e che ha sempre... non solo, ma proprio riconosciuto in pieno quanto sia stato importante per lui leggere i libri di Joe. Per Niccolò, con il quale ho parlato poco prima di partire per venire qui e che fra le altre cose consegnerà, diciamo, ufficialmente a Joe a Torino il premio Mondello, perché Joe ha vinto quest'anno il premio Mondello per l'autore straniero. Un premio importantissimo che negli ultimi anni ha visto premiati autori di primissima grandezza, europei, americani, penso a dei nomi, Elizabeth Strout, Javier Marías, grandissimi scrittori. Ecco, Niccolò mi ha sempre raccontato il suo Lansdale, e poi partirò da questo e farò la prima domanda a Joe proprio su questo punto. Cioè, mi ha sempre raccontato il suo Lansdale dicendo: io ero convinto che gli scrittori fossero più o meno tutti quanti classificabili in base a dei generi letterari, quindi per me esistevano gli scrittori di fantascienza, gli scrittori di noir, poi c'erano i cosiddetti classici, i maestri, che erano quelli che potevano fare un po' quel che volevano, cioè, però ci avevano scritto maestro in fronte, e anche quello in qualche modo era un'etichetta. Dopodiché mi sono trovato davanti uno scrittore completamente pazzo, un genio pazzo, il quale poteva passare da un genere all'altro, mescolarli, reinventarseli giorno dopo giorno, racconto dopo racconto, romanzo dopo romanzo, rimanendo però sempre in qualche modo se stesso, cioè avendo sempre una sua cifra personale che me lo rendeva perfettamente riconoscibile. E allora ecco che tutte le mie idee della letteratura sono saltate tutte per aria, perché allora non esistono più i generi, non esistono più le gabbie, cioè esistono degli scrittori per i quali conta veramente soltanto raccontare storie, raccontarle nel modo migliore possibile e utilizzare tutte le armi della fantasia, dell'invenzione, anche della lettura, delle conoscenze, e mettere tutto quanto al servizio del racconto. Niccolò vede Joe Lansdale in questo modo. Io, da suo traduttore, la prima domanda che gli devo fare è proprio questa. Cioè, in questa antologia ci sono 16 racconti. Ci sono racconti del fantastico, chiamiamoli così, racconti dell'orrore, western, gialli, noir, c'è tutto dentro questa antologia. Eppure io, che li ho tradotti certosinamente uno per uno questi racconti, sono tutti Lansdale all'ennesima potenza, sono tutti, e sono tutti perfettamente suoi e perfettamente riconoscibili. Allora la prima domanda è spontanea: come fai? Cioè, quali sono i, qual è il processo che ti porta di volta in volta dentro il genere ad avere questo tuo modo di raccontare? Cioè, come fai a essere così lansdaliano, per usare un termine che so che si è inventata la figlia Casey, che è lì, come fai a essere sempre così lansdaliano qualunque cosa scrivi? Okay. Buonasera, how are you doing? Before I get started, unlike the sponsor, I do not want to remain anonymous. I do want to be known, and Luca has done a marvelous job, and he was worth all the money I paid him. Quindi prima di cominciare voglio dire che io non voglio rimanere anonimo come lo sponsor, ma voglio invece farmi conoscere, e Luca per farmi conoscere ha fatto un lavoro straordinario, vale tutto il denaro che gli do. As to how, you know, I mix all these genres, the first answer, the true answer is I don't really know. And the second answer is it probably has to do with growing up on comic books first, because comic books always mix genres, and lots of the old movies mixed genres. And so I think I was influenced by them, and then as I became a reader, I was of course more influenced by the writings, but I think I never lost that feeling of mixing ideas and genres, and I think it's just because I'm really just writing what I like. Quindi, per quanto riguarda la domanda, come faccio a mischiare i generi e rimanere fedele a me stesso? La prima risposta spontanea è che non lo so. La seconda risposta è che probabilmente mi ha influenzato il fatto di essere cresciuto con i fumetti. Io sono un grande amante dei fumetti e anche dei vecchi film. I vecchi film e i fumetti mischiano per antonomasia i generi. Quindi sono stato influenzato da queste due serie e anche poi dagli scrittori. Più avanti ho cominciato a leggere un po' di tutto. Ma la cosa fondamentale è che io riesco a fare quello che faccio perché scrivo quello che mi piace. The other thing that's probably a secret weapon is my wife's popcorn. It makes you sick a little, which doesn't sound like a recommendation, but it is, because I don't eat popcorn much anymore, but used to, I could always tell when the bank account was getting low because my wife would start making popcorn, because, and she would use this grease that was really cheap, and it would give me nightmares, and I would get up the next morning and write them and sell them. So we, I think that's part of the big secret right there. Un'altra arma segreta sono i popcorn che fa mia moglie, che a dir la verità ti danno la nausea se ne mangi un po' tanti, quindi forse non è un gran complimento, però devo dire che ora non ne mangio più così tanti. Quando ho cominciato a scrivere potevo capire subito se il conto in banca si stava assottigliando, perché mia moglie faceva il popcorn con quel grasso da poco, quello che costava poco, e mi faceva venire gli incubi, così alla mattina mi alzavo e scrivevo tutto quello che mi veniva in mente. Yeah. And also when you know, the bank account was low, my daughter would go say, just go write something. Quando il conto appunto si assottigliava, mia figlia mi diceva, scrivi qualcosa, no? Yeah, that's all you had to do. I've always mixed the ideas of commerce and art and my passions. And to answer the question a little more fully, although it's more of the same in a way, is that I've always tried to bring the things that I was excited about to the fiction, because I think if you're excited, you're more likely to excite the reader. But by the same token, you can't please everybody, so I don't try to. But I do the best I can to please me and hope other people like it. A me piace sempre l'idea di mischiare un po' questi livelli, un po' il business e poi naturalmente l'arte e la passione, perché per tornare alla domanda di prima, bisogna scrivere le cose di cui uno si appassiona, e io cerco di mettere nei miei libri le cose che appassionano me, e mi dico, se appassionano me magari appassioneranno anche i lettori. Certo, non puoi piacere a tutti, però diciamo che io cerco di fare le cose che piacciono a me, sperando che piacciono anche agli altri. Sì, la domanda immediatamente successiva ovviamente ha a che fare con questa antologia. Io questa antologia, come dicevo prima, l'abbiamo più o meno tirata su insieme, nel senso che tenendo il principio che tutte le cose che dovevano andare in questa antologia dovessero essere inedite, in Italia. Questo proprio per evitare quelle formule per cui magari molti editori si sono specializzati, di dire la nuovissima antologia di, poi la vai ad aprire e 15 racconti, di cui 10 sono già usciti in 3.000 altri modi e magari 4 o 5 sono nuovi. Con Joe questo pericolo non esiste, perché Joe scrive, è un flusso continuo, quindi semmai il problema è stargli dietro, cioè riuscire come editore a seguire quello che fa. Ogni tanto lui mi chiama e mi dice ho una novella, adesso quasi quasi te la mando. Dico se me la mandi volentieri, e arriva una novella e tu dici oddio, è una novella, è bellissima, adesso che cosa ci faccio, quando la pubblico, come possiamo fare, insomma, no? Quindi questa antologia l'abbiamo costruita con l'unica idea degli inediti e con una serie di indicazioni, uno scambio di mail fra noi, no? Però quello che mi ha colpito è stato il tuo entusiasmo nel momento in cui la costruivamo, che so che è un entusiasmo legato proprio al racconto in quanto tale. Ecco, volevo che tu dicessi, che raccontassi che cosa sono i racconti per te, perché io so che è proprio una tua passione particolare. I prefer short stories to any other kind of writing, and always have. I think short stories are a real strong American tradition, for one thing, and I grew up on them, reading a lot of the writers like Ray Bradbury and Richard Matheson and the Hemingway short stories, and number of people. I mean, if I started a list of all the writers I like, we'd be here all night, because I owe all of those writers before me a great debt. I tried to incorporate their ideas, put it in a blender and learn from it and create my own stuff. But Luca's actually the editor. He's given me more credit than I deserve. I just said, here's another story. I got one here. Here's another one. But I've been writing for 40 years. So they have gathered up, as we like to say. And we wanted to make sure that we shook the dust off some of them that might have been ignored that we thought were good stories, and then some newer ones. But every time he would get close to putting it together, I'd go, Luca, you know, have you seen these? And I would send them to him. We had a bunch of them, a bunch of short stories. But he made the choices, because I didn't know how to make those choices. And I felt that he also knew best how to make them for the Italian reader. And it was even a bigger book at one point, but we realized that it would be like an encyclopedia collection, so we couldn't do that. So we just did this one big book, and it's big, but it was originally, you know, would have been bigger, but we just could not do that. But if you buy this one, there could be a volume two. Quindi sì, i racconti innanzitutto per me sono la forma letteraria migliore, la cosa che mi piace di più da scrivere, da leggere, e c'è una grande tradizione negli Stati Uniti dei racconti. Io li ho sempre letti, ho letto i racconti di Hemingway, di tutti questi scrittori famosissimi prima di me, verso i quali ho un debito di riconoscenza non da poco. Quindi cosa abbiamo fatto io e Luca? Abbiamo cercato di scegliere in questa montagna di racconti che ho scritto nel corso dei 40 anni, durante i quali ho scritto, e li abbiamo proprio messi insieme come una specie di mixer, abbiamo cercato di trovare una formula che fosse la migliore. E in questo devo veramente ringraziare tantissimo Luca, che è stato l'editor di questa raccolta, di questa antologia, perché innanzitutto io ogni tanto gli dicevo, guarda, ci sarebbe anche questa che potremmo metterci, e quest'altra, e finché ce n'erano talmente tante che francamente io non avrei mai saputo quale scegliere. Lui invece l'ha fatto, anche perché conosce il pubblico italiano, quindi sa cosa sarebbe piaciuto, e ha impedito che facessimo un'enciclopedia, perché il rischio era quello. Il libro è bello grosso comunque, vedrete, ma avrebbe potuto essere molto più grosso. Yeah, I honestly feel really happy about this collection, and though I've certainly had great success with novels, and I know short stories may not be as popular as novels, but this is my favorite book that I've had published anywhere, because it collects more stories and more variety of stories than any collection I've ever had. Quindi ripeto, appunto, lui è innamorato delle short stories, dei racconti, ha scritto tantissimi romanzi naturalmente, ma i racconti sono la sua forma preferita di scrittura, e dice questo è il libro più bello che io abbia mai scritto, che abbia mai pubblicato da sempre, anche perché è così vario, c'è proprio di tutto dentro. Sì, infatti è anche un po', poi ovviamente ci sposteremo anche su altro, perché una volta che, io credo, insomma, una volta che abbiamo Joe qui, dobbiamo parlare un po' di tutto quello che lui ha scritto nel corso del tempo, e non sarà possibile, cioè non basterebbe il tempo di questa serata per farlo. Quindi io mi fermo un secondo sul fatto, su uno dei tanti generi che sono frequentati dentro questa antologia, e che è un genere nel quale ultimamente, ma sempre in realtà durante la carriera di Joe, ma ultimamente in particolare mi sembra che Joe si sia orientato, che è il western. Cioè in questa antologia c'è un racconto, secondo me bellissimo tra l'altro, che è Vita da soldati, il cui protagonista è un nero, un cowboy nero, ex schiavo, il quale, e poi non vi racconto ovviamente il racconto, diciamo questo è solo l'antefatto, a un certo punto decide di arruolarsi nell'esercito, perché l'esercito è appena finita la guerra civile, arruola neri, e ci sarà tutta un'avventura che viene raccontata, divertentissima e anche con dei toni di verità. Il romanzo precedente a questa raccolta, che è La foresta, che è uscito alla fine dello scorso anno, è un western a sua volta. Anche in quel western uno dei protagonisti è nero, un altro è un nano, un pistolero nano, un altro è un ragazzo molto giovane e un'altra è una giovane prostituta. Quindi ci sono delle componenti che abitualmente noi non associamo al western, no? Quando noi pensiamo al western classico pensiamo fondamentalmente, uno, che i cowboy siano bianchi, tutti, due, le donne hanno un ruolo spesso secondario, qualche volta ci può stare il ragazzino, come per esempio nel Grinta c'era una ragazzina. Ecco, la presenza dei neri e questo interesse per il western erano due aspetti su cui volevo che ti soffermassi un attimo, cioè che ci raccontassi un attimo il tuo west, che è un west molto particolare, a cui probabilmente noi con la nostra cultura di tipo più cinematografico non siamo molto abituati. Right. Well, soldiering is the one that you're referring to, the one about the black cowboy, but a lot of people in America even and here don't know that about every third or fourth cowboy was actually black or Hispanic or of color. Because you don't see that in the John Ford movies. You don't see that in the Howard Hawks movies. John Ford addressed it a little bit, but during the times that those movies were made, the prejudice was so heavy that you didn't tend to see blacks represented outside of being cooks and you know, somebody that worked at the livery stable or something like that. But that isn't true. A large number of blacks after the Civil War, after the slaves were freed, went out west, because out west they were treated a lot more for what they could do, not for what color they were. And so that was a big transition for many of them. And they also got paid for an honest living for their work. They didn't get rich, but they got a certain amount of respect in the military. And a lot of them are actually the ones who dealt with the wars with the American Indian or the Native American. Instead of the white guys. So when you see the westerns with John Wayne, a lot of times it was like the black guys that were going out to engage the Native Americans. And I think it's strange that you had two groups that were being pretty much pushed down by former Europeans in a way that had become Americans, and yet they were fighting each other as well. And the American Indian called them buffalo soldiers. Which sometimes it was either because they were brave or because the most common thing is that their hair was very much like the buffalo's. It was kinky, and the buffalo's was, so they called them buffalo soldiers. But a lot of people have no idea the great amount of investment that blacks put into our frontier. Sì, quindi lui si riferisce appunto al racconto Vita da soldato. E per questo, quanto riguarda appunto i protagonisti di questo racconto, appunto che sono un nero, una donna, eccetera, molte persone negli Stati Uniti, ma anche in Europa, non sanno che i cowboy, quindi al tempo del West, uno su quattro era nero oppure era di origine ispanica. Non si vede nei film di John Ford, tranne proprio in rarissima eccezione. Anche perché quando sono stati girati questi film i pregiudizi razziali erano ancora tantissimi. E quindi al massimo si vedono i neri fare i cuochi, per esempio, in questi film. Ma non è vero, perché dopo la guerra civile, cioè dopo che era stato abolito la schiavitù, molte persone di colore andarono nel West, perché lì erano trattate meglio, perché erano rispettate di più, erano pagate per quello che facevano. E quindi, per esempio, nelle guerre contro gli indiani d'America, non è vero che andava la gente, i cowboy come John Wayne, andavano i neri. E questa è una cosa che non si sa per lo più, e anche tra l'altro strano, dice lui, che due gruppi, due minoranze, quindi i neri e gli indiani d'America, si combattessero a vantaggio di quelli che invece l'America l'avevano occupata, cioè quelli di origine europea. Tra l'altro gli indiani americani chiamavano i soldati neri Buffalo Soldiers, soldati bisonte, perché avevano, innanzitutto perché erano coraggiosi, poi perché avevano i capelli un po' ricci, così come appunto ce li hanno i bisonti. E, ecco, molte persone, ripeto, non sanno di questa cosa, non sanno quanti neri abbiano investito nello sviluppo della frontiera americana. I noticed when I was younger, I'd start looking through all of these old photograph books of cowboys and westerners, and I'd look and there'd be black faces, Hispanic faces, all the stuff that you didn't see in the cinema. It was a totally different kind of West, and so it intrigued me, and I wanted to write a novel about a black cowboy and soldier for many, many years, but in the process I wrote two or three short stories, and now recently I've just finished a big novel about you know, this black experience in the West. But it's one of those things I've been interested in for a long time, so it was great to get the short story published, and it's even more exciting to me to have it here in this collection. Quando ero più giovane, sfogliando i libri di fotografie sui cowboy, spesso vedevo delle facce appunto di persone di colore o di origine ispanica, cosa che invece nei film assolutamente non si vedeva. E quindi per anni ho sempre voluto scrivere e raccontare la storia di un cowboy nero. E ho scritto prima alcuni racconti e poi finalmente ho scritto anche un libro recentemente, proprio il cui protagonista è un cowboy nero. Quindi è una cosa che mi interessa da anni e sono molto contento che in questa raccolta di racconti ci sia anche questo Vita da soldato. Some of the most famous marshals in the West were actually black men, and a lot of people don't know that. And so those are all the things that I tried to express in the stories, and I hope that the forthcoming book will appear here as well. We hope that. Quindi ecco, nell'esercito anche le persone più avanti, anche gli ufficiali spesso erano di colore, ed era proprio quello che volevo scrivere e che ho scritto in quest'ultimo libro, che spero venga tradotto e pubblicato anche in italiano. Sicuramente. Non ci sono dubbi, anche perché appunto, per esempio La foresta, che è l'ultimo romanzo che di Joe, è andato molto bene, quindi evidentemente poi questo suo modo particolare di trattare anche le storie western trova il suo pubblico molto ricettivo. Ecco, spostiamoci un secondo prima di spostarci, io ho solo una curiosità, perché c'è un racconto in particolare di cui vorrei tu ci parlassi esattamente nei termini che vuoi tu, che è Baba Hotep, che è uno dei racconti lunghi, in realtà una novella più che un racconto, che è incluso in questa antologia. È un racconto lungo una sessantina di pagine, quindi chiamarlo racconto forse è ancora riduttivo. Vorrei che tu ce ne parlassi esattamente come vuoi, perché io non ne posso parlare, perché non sono io qui che presento, però posso accennare solo la mia esperienza di traduttore. Ho riso talmente tanto traducendo questo racconto che vorrei che tu ci spiegassi come accidente ti è venuto in testa di scrivere questo racconto. So che nell'introduzione, che tu, fra altre cose, in questa antologia c'è un'introduzione scritta appositamente per l'antologia, in cui Joe ci parla anche di Baba Hotep e ci dice che quando l'ha consegnato aveva qualche dubbio su quello che aveva fatto, insomma. Io mi sono talmente tanto divertito, però in effetti è un racconto talmente insolito che vorrei che tu ci dicessi un po' di che si tratta. Yeah, Baba Hotep, yeah. They also made a film out of it too, which I enjoy. But my sister-in-law went to high school with Elvis Presley. She's 16 years older than I am. My brother's 17, which I always try to remind him of when I see him. So they both actually knew Elvis Presley before he was really Elvis Presley. And my brother recorded at Sun Records. Yeah. But my brother didn't have any success. Elvis did, and Johnny Cash did. And as an aside, I have to say this, that my daughter's producer for her record, she's a singer, is Johnny Cash's son, John Carter Cash. So there's a kind of a full circle. But I had this whole thing about Elvis growing up because I remember hearing him on the radio when he first came out. I was four years old, and I was thinking, whoa, what is that? And then at the same time, time went on, I thought, I'd like to write something about Elvis Presley, but I don't know what it is. And then I went through the experience of the death of John Kennedy when he was assassinated. And this is part of the story, too. Am I doing okay for you there? Fine. Okay. And so my mother, when I was older, ended up in a rest home for a while because of a terrible wreck that she had, a terrible injury. And so I spent a lot of time at the rest home visiting her. And then there was all these rumors going around, Elvis isn't dead, he's really alive. And so I begin to think, huh, there's a way all of these connect. And I always wanted to write a story called Bubba Hotep that I didn't know what it was. I just liked the title because I liked old mummy movies. So I just said, what if he wasn't Amenhotep, he was Bubba Hotep. I'll continue from there. Sì, ma allora questo racconto, da questo racconto tra l'altro hanno fatto anche un film che a me piace tantissimo, dice lui. Allora, dovete sapere che mia cognata, la moglie di mio fratello, che ha 16 anni più di me, e io glielo ricordo ogni volta che posso, giusto per, è andata a scuola con Elvis, perché appunto l'ha conosciuto prima quindi che lui diventasse Elvis Presley. Addirittura mio fratello aveva registrato dei dischi per la Sun Records senza nessun successo, mentre invece Elvis e Johnny Cash di successo ne hanno avuto tantissimo. Tra l'altro, per chiudere il cerchio, mia figlia, che è seduta qui in prima fila, che è cantante, ha come produttore dei suoi dischi il figlio di Johnny Cash, che si chiama Johnny Carter Cash. Comunque, quando Elvis ha cominciato a diventare famoso, io ero piccolino, avevo 4 anni, però subito la cosa mi ha colpito tantissimo e ho sempre voluto scrivere qualcosa su Elvis Presley. Poi c'è un altro elemento del film che è appunto John Kennedy. Quando è morto John Kennedy, questa è un'altra cosa che mi ha colpito tantissimo. E il terzo elemento invece è la casa per anziani. Mia madre a un certo momento ha avuto un bruttissimo incidente, quindi è finita in casa per anziani per un periodo, e io ho passato tanto tempo in questa casa per anziani, quindi ho cominciato a vedere come andavano le cose lì. E nel frattempo Elvis era morto, ma continuavano a girare delle voci che in realtà Elvis non era morto. Allora mi sono detto, ma tutte queste cose le posso combinare in questo libro che volevo a tutti i costi intitolare Bubba Hotep, e Hotep vuol dire mummia, e dopo capirete perché. And also there was the idea that John Kennedy, a very dignified man who died a very undignified death, and Elvis Presley, who died on the toilet. And so you have these two American icons, and I wanted to give them a life beyond what had really happened. And so it turns out that Elvis is in this rest home, and nobody believes he's Elvis because he broke his hip, and he's been there for a while, and they think he's an impersonator because he traded places with an impersonator so that he could have a life of his own. And then John Kennedy, well, you don't know if this person is crazy or if this person is real, but it's a black man, it's Ossie Davis in the film, and he believes he's Elvis Presley and that his brain is in a jar at the White House powered by batteries. And so I wrote this story and I thought, wow, I have just written the craziest, worst story ever written. And I had turned it in, and I was actually going to write the editor and say, you know, I'm going to withdraw this. I don't know what I was thinking. And right when I was thinking, I got this excited letter. Oh, my God, we love this. This is the best story in the book. This is incredible. And I thought, I knew that. Quindi ecco, andiamo avanti. Allora, per l'elemento Kennedy, quest'uomo appunto così, un'icona americana che era morto in maniera così poco dignitosa, tra l'altro in Texas, e poi Elvis, un'altra icona americana. E volevo dare a queste due persone una vita al di là della vita che si era conclusa per loro due. E quindi appunto in questa casa per anziani c'è Elvis, che è lì perché si è rotto l'anca, e, però nessuno gli crede, pensano che sia uno che impersonifica Elvis Presley, che fa la sua controfigura, uno di questi sosia, perché lui in realtà si era scambiato con un sosia per poter vivere un pochino più tranquillo. E poi c'è quello che crede invece di essere Kennedy, o veramente Kennedy, non si sa, comunque è nero tra l'altro, è Ossie Davidson, e pensa che il suo cervello sia in un vaso alla Casa Bianca. Comunque, ho scritto questa storia, che mi sono detta la storia più assurda che io abbia mai scritto, l'ho consegnata al mio editore dicendo, ma no, forse è meglio che lo chiami, gli dica che ho cambiato idea. Quando stavo per chiamarlo, ricevo questa lettera e mi dicono, guarda, è la storia più bella che tu abbia mai scritto. Io mi sono detto, lo sapevo. When they made the film, they had it starred Bruce Campbell, who you may not know who he is here, but in the U.S. he's fairly a very famous B actor, is what they call. I think he's just a good actor. And then they had Ossie Davis, who you probably do know, playing John F. Kennedy, because he had been dyed black. He thought they were trying to disguise him and hide him. But one of the things that I thought was funny was that when Bruce was going to play Elvis, they found out he couldn't sing, he couldn't dance, and he couldn't do the imitations. And in fact, the guy that was an Elvis impersonator gave up on him and just said, "I quit." And he did a great job. He did an instinctively wonderful job as an elderly Elvis Presley. And he told me, "Well, I can't get too old to play this part," because he wore makeup. But he said, "If we ever do another one, I won't have to wear the makeup." Quindi appunto nel film l'attore che fa Elvis è Bruce Campbell, che magari non conoscete, però è molto famoso negli Stati Uniti come attore di B-movies. E poi c'è questo Ossie Davis che fa appunto Kennedy, che appunto vi dicevo è nero, ma in realtà nel film lui dice: "No, mi hanno pitturato di nero per nascondermi, così nessuno sa che sono Kennedy veramente." E per tornare a Bruce Campbell, che appunto recita la parte di Elvis, in realtà il suo sosia a un certo momento ha detto: "Basta, fai tu", perché mentre giravano il film si sono resi conto che sapeva cantare, che sapeva ballare benissimo e ha fatto veramente un ottimo lavoro, recitando appunto un vecchio Elvis Presley. Poi ridendo così mi ha detto: "Speriamo che non facciano una serie di questo film, perché dopo divento talmente vecchio che non hai neanche più bisogno di truccarmi da vecchio." One more thing is that Ossie Davis actually knew both John Kennedy and Elvis Presley, so that was kind of interesting when he played in the film. And it was also, he was a hero of mine, a civil rights hero, a producer, a director, an actor, a writer. I mean, that guy did everything. He did the eulogy at Malcolm X's funeral and spoke at Martin Luther King's funeral. So I was in awe, you know. Quindi questo Ossie Davis, tra l'altro, aveva conosciuto personalmente sia Elvis che John Kennedy ed era un eroe dei movimenti civili appunto per negli anni 60 negli Stati Uniti. Lui era uno scrittore, un regista, un attore, addirittura ha tenuto lui il discorso funebre al funerale di Malcolm X e anche al funerale di Martin Luther King, quindi era veramente un mito per me. Dunque, spostiamoci un attimo. Una domanda: hai parlato di cinema, quindi hai parlato nel caso specifico del film tratto da Baba Hotep, e però noi sappiamo anche che il tuo rapporto con il cinema si sta evolvendo e che ci sono grosse novità da questo punto di vista, cioè che sempre più e finalmente direi io il cinema americano e il sistema produttivo americano si è accorto dell'enorme quantità di materiali che i tuoi libri forniscono, per cui si cominciano veramente a vedere i frutti anche al cinema del tuo lavoro. Allora ti volevo chiedere: qual è il tuo rapporto? Intanto, se ci racconti un po' cosa sta succedendo. Sappiamo che andrai a Cannes fra 10 giorni, e poi anche qual è il tuo ruolo, cioè che rapporto hai con le trasposizioni cinematografiche dei tuoi libri? Perché io so che ci sono tanti scrittori che semplicemente lasciano andare i loro libri e non vogliono sapere niente di come sono trasposti per il cinema, però non mi pare di aver capito che non è il tuo caso. Well, sometimes they'll let you get involved and sometimes they won't. But I'm very fortunate in that when they did Bubba Hotep, they asked my opinions on things, then they did what they wanted, but they did pretty much what I liked. And then recently at Sundance, my book Cold in July, I'm not sure what it's called here. Freddo a Luglio. Yeah, was filmed with Michael C. Hall, Don Johnson, and Sam Shepard, and Vanessa Shaw. And they did a great job. And now it's gone to Cannes, so it'll be there. And then it premieres in the United States May the 23rd, and then I'm hoping that it will show here. But I'm a producer on that one, and, you know, it sounds like I'm up here shilling for my daughter, but she also has two songs in that they picked, having nothing to do with me, for the soundtrack. So she's got a couple of songs in the soundtrack, and it's a nice family affair in that way, you know. And they give credit to Karen and everybody in the family for not killing me during the process, I think. But they did a wonderful job, and the director is Jim Mickle. Screenwriters Jim Mickle and Nick D'Amici. So I'm very excited about that. That's one thing. Sì, a volte quando fanno un film tratto da un libro di uno scrittore permettono allo scrittore di dire la sua, a volte no. Io sono stato fortunato perché con Baba Hotep appunto mi hanno chiesto qual era la mia opinione, poi hanno fatto quello che volevano, però quello che hanno fatto a me piace, quindi va bene. Al Sundance Film Festival, tra l'altro, hanno presentato anche Cold in July, che è il film che adesso andrà a Cannes, e dove ci sono per esempio Don Johnson e Sam Shepard che recitano, quindi non è una cosa da poco. Il 31 di maggio ci sarà la prima negli Stati Uniti e poi spero che il film arriverà anche nelle sale qui in Svizzera. Io lì sono anche produttore e poi, senza voler star qui a tessere le lodi di mia figlia, comunque ci sono anche due canzoni cantate da mia figlia nella colonna sonora del film, quindi è proprio un affare di famiglia, diciamo, questo film. Anche mia moglie in fondo viene ringraziata per non avermi ucciso mentre appunto si girava questo film, e ecco, ringrazio tantissimo anche il regista Jim Mickle di questo film. Yeah. The other thing is Bill Paxton is going to direct The Bottoms. What's it called here? It's In fondo alla palude. Okay. He's going to direct that one this fall. I don't know who's going to be in it yet. They're still searching. But Bill is a good guy, and I like his directing. He did the movie Frailty, and the man who wrote that screenplay, Brent Hanley, also wrote this screenplay. It's very good, and so I'm very excited about that. E poi appunto c'è un nuovo film che adesso gireranno in autunno, diretto da Bill Paxton, che ha diretto anche Frailties, che non so come si chiama in italiano, forse non è stato tradotto, non lo so. E appunto il nuovo film sarà tratto dal libro In fondo alla palude. Non so ancora chi saranno gli attori, ma lo sceneggiatore è lo stesso del film Frailties. And also we have a number of other things that are option and in the mill that I can't talk about right now, but it looks like we're fixing to have a fiesta of Lansdale films, for better or worse. So. E poi ci sono altri progetti, altre opzioni delle quali non posso ancora parlare perché non è ancora niente di sicuro, ma penso che avrete una bella serie di film e di serie televisive tratte dalla mia produzione. And possibly a couple of television series if they end up happening. Appunto, anche serie televisive. I just cash the checks. Io mi limito a incassare alla fine. And then I hope for the best, yeah. E spero che appunto la cosa poi vada in porto. Allora, adesso è arrivata l'ora dei biscotti alla vaniglia, perché giustamente non è un caso che qui si parli di Dr. Pepper e biscotti alla vaniglia. Cioè, sapete benissimo, in Italia, quindi diciamo in Italia è qui, quindi le persone che leggono le sue traduzioni hanno un grande amore che è legato a due personaggi straordinari che Joe ha inventato e su cui ha costruito una serie di romanzi e di racconti, che sono appunto Hap Collins e Leonard Pine, Hap e Leonard. Ogni volta che Joe si ferma un po' con questi due personaggi e quindi scrive dell'altro, e magari passa un anno, passano due anni, magari ne passano tre e non esce niente di Hap e Leonard, noi cominciamo a venire anche in casa editrice tempestati, o io come traduttore, di mail di persone che dicono sì, no, ma va benissimo, cioè quello che scrive Joe è fantastico, ma Hap e Leonard quando tornano, cioè proprio sembra veramente come se si parlasse di degli amici di famiglia, in qualche modo, che è da un po' di tempo che non fanno un viaggetto dalle parti nostre e non ci vengono a trovare. Ecco, allora è d'obbligo la domanda, insomma, tornano o non tornano? Perché io la mia prima esperienza, fra altre cose, come tuo traduttore è stata con Hap e Leonard, perché ho tradotto le due novelle più il racconto scritto con Andrew Wax, che sono uscite, ed è l'ultima cosa di Hap e Leonard che è uscita in Italia. E anche io vorrei sapere quando tornano, perché secondo me mi sono divertito molto. Ritradurne un altro non mi dispiacerebbe. You know, it's funny. I'll write novels that win all these literary prizes, and all people are just, oh, those are just great. And then, or they'll talk about them, and just when they get through, kind of like what you were saying, they'll go, but when's the next Hap and Leonard? And I'm writing that book next. I'm writing a Happy Leonard. I may write a couple of them in a row. And they're probably going to be around for as long as I am, but there should be two or three in a row here behind each other coming up. Quindi appunto io scrivo un sacco di romanzi, magari vinco dei premi letterari e tutti mi dicono bravo, bravo, però poi stanno un attimo zitti e dicono però quando è che scrivi il prossimo libro di Happy Leonard, perché vorremmo leggere quello. Quindi vi assicuro che loro ci sono, ci saranno, finché ci sono io ci saranno anche loro. Ne scriverò uno tra poco, anzi magari ne scrivo anche un paio di fila. Soon. Presto. Troppa grazia. Una domanda. Una curiosità più che altro, appunto, come dicevo prima, tu hai scritto qualcosa come, io ne ho contati più di 30 romanzi e magari me ne sono perso qualcuno per strada, più diverse centinaia di racconti. Molti di questi libri, direi quasi tutti, sono tradotti in italiano e quindi sono disponibili, perché poi sono tutti in stampa, non esiste un libro di gioco che sia fuori stampa. Questo dice anche qualcosa sulla sua popolarità. Dal tuo punto di vista ultra soggettivo, se, ecco, immaginati una persona che non ti conosce, da dove lo faresti partire? Cioè, quali sono i 2 o 3 libri da cui lo faresti partire per leggerti? A parte i racconti che sappiamo sono la tua, i 2 o 3 romanzi, diciamo, da cui partire. Okay. The Bottoms, whatever that's called here. In fondo alla palude. I think that does everything that I do well, pretty well. You know, I'm very fond, and I think it covers a broad spectrum of interest. If it's my best novel, might be debatable. But I certainly think it's my most popular one in the U.S. But I do believe it's a good place to start. Quindi appunto In fondo alla palude, perché dice copre un po' tutte le cose che poi lui ha trattato anche negli altri romanzi. Non sa se è il suo miglior romanzo, comunque è il più famoso negli Stati Uniti. Oh, un'altra curiosità che invece ha a che fare con questo grandissimo successo, cioè tu ormai sei diventato, potresti avere la cittadinanza italiana con una certa facilità, perché sei diventato un ospite d'onore adesso anche qui a Lugano, ma vieni spesso in Italia, so che a volte vieni anche proprio per il puro piacere di venire. E hai in Italia un pubblico straordinariamente fedele che, per carità, non siamo l'unico paese che ti ammira, ti apprezza, eccetera, però forse è un paese in cui tu hai avuto un successo immediato che non si è fermato mai. Ti sei domandato ogni tanto come mai, che c'hanno sti italiani, questa Texas Italy Connection, da dove viene, così, se ti sei fatto un'idea? Yeah, I have asked myself that and I've never come up with a really good answer. But boy, am I glad. I love Italy, and I love, I think I have really good readers here. I mean, I have good readers in the U.S., but I have, I think, more insightful readers in Italy. I do say that. I've said that in America, too, and they all go, yeah, I can see that. But I really do. I think that they're more inclined to kind of dig into the work and see what's there sometimes when American readers don't. So I very much appreciated that. But I think a lot of it is that East Texas is not like the rest of Texas. A lot of it is like Italy. It's very warm, it's very food oriented. People are, you know, can't wait to see each other. They can sit and talk for hours. And although when we get ready to go, we actually leave, you know, which is a difference. Ecco, sì, me lo sono chiesto un sacco di volte il perché di questo successo, non ho mai trovato una risposta convincente. Comunque sono molto felice naturalmente del successo che ho in Italia, è un paese che mi piace tantissimo e devo dire che i lettori di lingua italiana sono forse un pochino più profondi dei lettori americani, vanno un po' più a fondo delle cose. È una cosa che ho detto anche ai lettori negli Stati Uniti e devo dire che hanno riconosciuto anche loro che è vero. E poi c'è un'altra cosa, io i libri li ambiento nel Texas orientale, che non è il Texas, è un'altra cosa, è molto più simile all'Italia per tante cose, per il clima che è caldo, perché ci piace mangiare, perché ci piace stare insieme a chiacchierare, eccetera. Quindi questo potrebbe essere un motivo. Yeah, you know, one of the things I love the most here and is when we sit down to have a meal, you have a meal. You're there not, you know, I mean, I know you have Burger King and I know you have McDonald's, but most of my experiences have been where we sit at a table and we actually visit and we have food. And in the U.S., it's a little less like that than it used to be, but in the South, where we live, it's still more that way. You know, people like to sit and talk and visit and eat and bring out, well, and one of my experiences here was that when I first came, they brought, of course, it was a nice meal, and they brought me something to eat, and I started eating. I said, that's the salad. Then they brought me the second course. I said, that's the second course. And then they brought me the third course, and I said, now I'm done. And then they brought me another course, and I said, I'm not done. And then they brought me 8 or 9 courses. I kid you not. And then we had dessert, and I am ashamed to say I threw up on the plane. But boy, was it good. Going in, not coming out. Quindi un'altra cosa che appunto abbiamo in comune noi del Texas orientale con la cultura italiana è che quando ci sediamo per un pasto, ci sediamo per un pasto, visto che anche qui c'è il McDonald's, c'è il Burger King, eccetera, però è diverso, insomma, a noi piace, come piace a voi, sedersi intorno a un tavolo, chiacchierare, gustare il cibo, e negli Stati Uniti non è più tanto così. Nel sud degli Stati Uniti, però, da dove vengo io, sì. E quindi lì la gente si siede, mangia, e devo dire, vi racconto una cosa che mi è successa la prima volta che sono venuto in Italia. Mi sono seduto e mi hanno dato da mangiare un'insalata, ho detto buona, poi è arrivato il primo, buono, poi è arrivato il secondo, buono, dico adesso basta, invece sono andati avanti per 8-9 portate, poi il dessert. E devo dire che è uno dei pasti migliori che io abbia mai mangiato. Naturalmente poi sull'aereo ho vomitato tutto, però era buonissimo. I've learned to pace myself for one thing, and I've learned better how to ask for things. Nel frattempo ho imparato un pochino a controllarmi, a chiedere magari un pochino di più. What little Italian I know, I may have thought I was saying thank you and I may have actually been saying more. Siccome non so l'italiano, pensavo magari di dire basta, ho mangiato sufficiente, invece forse dicevo grazie, me ne di ancora. Dunque, una domanda ancora. So che tu, cioè so perché sono tuo amico sui social media, no? Tu hai un profilo Facebook, una pagina, sulla quale da un po' di tempo a questa parte, ma direi con una certa regolarità, tu scrivi consigli, diciamo, consigli, suggerimenti su per chi voglia scrivere in qualche maniera, no? E so che tu avresti anche in mente di fare, di raccoglierli in qualche modo, perché una volta ne abbiamo anche parlato, e secondo me sarebbe una cosa molto interessante. Voi saprete che in Italia c'è stato un periodo in cui si è cominciato a parlare di scrittura creativa, ci sono anche scuole di scrittura creativa sparse per l'Italia, però Joe ha proprio un sistema tutto suo, per estremamente, anche estremamente pratico da certi punti di vista, su che cosa si deve fare se si vuole cominciare a scrivere o che cosa non si deve fare. Allora ti volevo chiedere se un paio di queste cose, proprio veramente l'ABC, le primissime cose, tu ce le potessi ripetere anche qui. You know, one of the things is I don't think I know any more than anybody else about this, first of all, but I know what works for me. I'm not saying that it would work for everyone else, so I want you to know that this is advice that I give people and say, hey, this worked for me, it might work for you. If it doesn't work for you, it might stimulate a way of thinking where you can find what does work for you. But I will give you the most important tips. I'm really going to boil down all the advice into a very, very small thing. You can then split it and talk about it more in great detail, but here is the most important things. Read all the time. Live your life when you're not reading, even if it's all the time, live your life, and put your ass in a chair and write. That's the end of it. Everything else is just like splitting those things and looking at it in a different way. There's different ways that I can say, here's a way you might approach a character, here's a way you might do this, but nothing works other than living your life so that you're not just writing about writing, and that you read and that you sit down and you actually write. Quindi lui dice, non è che ha la formula magica, posso dirvi quello che funziona per me e magari può funzionare anche per voi, magari no, però magari fa click poi nella vostra testa e trovate quello che sistema, funziona per voi, il sistema che funziona per voi. Allora, i consigli che io vorrei raccogliere in questo libricino sono veramente pochissimi e il principale è: leggete tutto quello che potete, continuate a leggere, sempre, sempre, sempre. Poi quel poco di tempo che vi resta per vivere, vivete e scrivete quello che vivete, è tutto lì. The other thing is, don't write all the time. When you write, dedicate yourself, do it regularly, but only do a little bit every day and you're a hero every day. You don't go to bed thinking you didn't do it. I just write 3 to 5 pages a day, and I've written over 40 books. And I've written over 28 short story collections. I've written a lot of stories that haven't been collected. I've written essays and all that. And I did that primarily by just going in and writing that little bit. Now, when I first started, for the first few years, I wrote a lot more than that. But I realized I was getting diminishing returns. I did better by doing a small amount. And also by living, getting out in the world and living and doing things, even if it's just mundane things, it makes you a better writer. And then the other thing is, take your work seriously, but don't take yourself seriously. You're nothing special. You're just another working person, you know. Sì, allora, un'altra cosa è, scrivete appunto come vi ho detto, ma non continuate a scrivere. Scrivete in maniera concentrata, regolarmente, un pochino tutti i giorni. Io per esempio scrivo al massimo 3-5 pagine al giorno, eppure ho scritto 40 romanzi, 28 collezioni di racconti, saggi e quant'altro. All'inizio scrivevo di più, ma poi mi sono reso conto che in realtà non mi aiutava così tanto. Quindi meglio poco e per il resto andate in giro, uscite nel mondo, dice lui, guardate le cose e diventerete degli scrittori migliori. E un'altra cosa importante: prendete molto sul serio il vostro lavoro, ma non prendete sul serio voi stessi. I really care about what I write. I try to always write the best I can. I meet writers, though, that tell me, oh, this is so miserable. I spend so much time, and it's like crucifixion. And I thought, have you ever dug a ditch, man? Have you ever worked in an aluminum chair factory? Have you ever, you know, plowed with a mule, which I have done? Shut up. This is the best job in the world. It's hard sometimes, but I mean, really? The other is much harder. I'm very proud of my blue-collar background because it gave me great perspective, and it also taught me work ethic. But the idea that, and writing can be hard, don't misunderstand me, but the idea that this is somehow makes you superior and that you're somehow something special because you sit in a chair and you think, you know, we're all doing the best we can do. It's just, I think I just lucked out. I guarantee it's a lot easier than those other things I was doing, and it's a lot more fun even on its worst day. Sì, allora, non fraintendetemi, a me interessa molto quello che scrivo e cerco sempre di scrivere il meglio che posso, però ogni tanto ci sono dei colleghi scrittori che vengono e mi dicono, ah, ma quello che scrivo fa schifo, questo lavoro è difficilissimo, e io dico, non scherzare, io so cosa vuol dire lavorare sul serio, perché prima di diventare scrittore ho fatto di tutto, facevo il manovale, costruivo sedie di alluminio, lavoravo in un posto dove coltivavano le rose, e vi dico che scrivere è la cosa più bella, più interessante del mondo, a volte è difficile. Però io devo dire che quello che ho imparato facendo tutti gli altri lavori mi ha dato la prospettiva necessaria per scrivere, mi ha insegnato un'etica del lavoro. E quelle persone che si sentono superiori, un po' speciali, perché pensano e poi scrivono sedute in una sedia, non hanno capito niente. Io ho avuto fortuna e devo dire che il lavoro che faccio è bellissimo e mi diverte tantissimo. Hai fatto tanti regali anche a noi, ecco, a noi tutti. Io credo che, ecco, voi avete avuto, ho l'impressione che siamo più o meno alla fine, o quasi, perché siamo quasi a un'ora, voi avete avuto soltanto un assaggio. Una cosa, tu dicevi, è importante leggere, leggete, e poi ovviamente girate per il mondo. Io vi assicuro, io sono anni che quasi ogni anno ci ritroviamo in un modo o nell'altro. E anche io sono una persona che legge tantissimo, quindi ama parlare di libri. Oh, riuscissi a trovarne uno che non ha letto, ma li ha letti per davvero, non è di quelli, perché il mondo è pieno di gente che fa finta di aver letto i libri. Ci sono alcuni che hanno un livello di specializzazione straordinario proprio, cioè magari si leggono una recensione, prendono quei 2-3 elementi, poi però se voi provate un attimo con queste persone a dirgli, eh sì, poi c'è quel pezzo in cui, ti ricordi quanto è bello quel pezzo in cui il protagonista mangia, si strozza con una polpetta, quello dice, ah sì sì, bellissimo, se puoi dirgli tranquillamente, guarda, quel pezzo non c'è nel romanzo. Guardate, 9 volte su 10 funziona, con lui no, perché lui i libri li ha letti per davvero. Cioè, io raramente ho trovato uno scrittore, e ho trovato uno scrittore che, vi assicuro, e chi l'ha letto lo sa, è completamente privo della puzza sotto il naso che caratterizza certi scrittori cosiddetti alti, letterari, eccetera, eccetera. Io vi sfido a trovare un altro scrittore che abbia letto tutta la roba che ha letto lui. Ecco, è una cosa. E la domanda anche che ti volevo fare, che può essere una domanda in qualche modo conclusiva, cioè hai parlato dei fumetti, giustamente, e io so quanto sono stati importanti per te i fumetti, quanto sono stati importanti i film e anche i B-movies, perché no? Ecco, gli scrittori, cioè quali sono stati, qui per esempio in questa antologia c'è una novella che si intitola L'isola del terrore, Dread Island, che è un omaggio, è sostanzialmente un omaggio a Mark Twain. Ecco, io credo che Mark Twain sia uno degli scrittori su cui tu veramente ti sei formato. Non credo però che sia l'unico, e sarebbe bello se tu ci facessi una specie di piccolo itinerario. Lo so che se cominci finisci domani, però lo stesso discorso che abbiamo fatto prima per i consigli sulla scrittura. Cosa ci consiglieresti di leggere? Ecco, a una persona che ama te, ecco, che ama te come scrittore. Oh boy. Like you said, it would be a long list, so I'm going to give you a curtailed list. I'm not going to talk about necessarily just the things that influenced me as a youth, but the things that still influence me. Mark Twain, as you said, I love Mark Twain. I think he was a genius, and he makes the rest of us look like we're just scribbling. Jack London, I love Jack London. Philip Jose Farmer, Ray Bradbury, Richard Matheson, Raymond Chandler, Dashiell Hammett, James Cain, some Jim Thompson, good grief, Steinbeck, Hemingway, F. Scott Fitzgerald, at least The Great Gatsby. Great Gatsby, maybe one of the best novels ever written. To Kill a Mockingbird by Harper Lee, the complete short stories of Flannery O'Connor. Had enough? I think so. Ecco, allora, la lista sarebbe interminabile, staremmo qui davvero tutta la sera, però non vi citerò soltanto gli autori che mi hanno influenzato da giovane, ma che tuttora mi influenzano. Quindi Mark Twain, che è un genio, fa sembrare tutti noi dei dilettanti, Jack London, Raymond Chandler, Jim Thompson, Steinbeck, Hemingway, wow. Fitzgerald, con il Great Gatsby particolarmente, che è uno dei libri più belli in assoluto, Harper Lee e via. Erskine, Caldwell, Carson McCullough, it goes on and on. E li ha letti tutti, quello è il punto, insomma. Non lo so, noi potremmo andare avanti all'infinito, in realtà ci dobbiamo fermare. Io intanto ringrazio tutti, perché non è neanche frequente, io un pochino giro, però trovare un pubblico così, così ampio e così attento non è che capiti proprio esattamente in tutti i posti. Quindi è un'esperienza molto bella anche per noi avervi avuti tutti qui e così attenti e così partecipi. E poi un grazie particolare da parte mia e un complimento particolare a chi ha tradotto, perché anche il livello della traduzione, vi posso assicurare, è fuori del comune. Grazie.